sailing hot ships through broken harbors out on the streets in the night. Still such a miles from the dark horse racing alone in his sight. Tell me to me. i drømmeland, der hvor man kan drømme. Tag mig med ud i verdenens land, der hvor man kan larme. Tag mig til Joanna, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Tag mig med til det store hav, der hvor man kan svømme. Tag mig med i den tynde luft, der hvor man kan svæve. Tag mig til Joanna, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Tag mig med i den grønne skov, der hvor man kan spire. Tag mig med ind i storbyens sjæl, der hvor man kan jage. Tag mig med til Joanna, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Tag mig til Joanna, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Blessed and sore. Sit and sore, sit and sore. Our students sit and sore. Sit and sore, sit and sore. All she do just sit and sore. Attraverso il buio, Giovanna d'Arco precedeva le fiamme cavalcando nessuna luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco. Della guerra sono stanca ormai, al lavoro di un tempo tornerei, a un vestito di sposa, qualcosa di bianco per nascondere questa mia vocazione al trionfo e al pianto. Lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai. Sono parole le tue che volevo ascoltare. Ti ho spiata ogni giorno cavalcare e a sentirti così ora so cosa voglio. Vincere un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. Is it too fair? Divertendosi al gioco. Chi sei tu che parli così senza riguardo? Veramente, stai parlando col fuoco ed amo la tua solitudine. Lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai, la lai la lai, lai la lai. E se tu sei il fuoco, raffredda di un fuoco. Le tue mani ora avranno da tenere qualcosa. E tacendo, gli si arrampicò dentro ad offrirgli il suo modo migliore di essere sposa. E nel profondo del suo cuore rovente, lui prese ad avvolgere Giovanna d'Arco e là in alto e davanti alla gente lui appese le ceneri inutili e il suo abito bianco. Lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la la la la la la la. E fu nel profondo del suo cuore rovente che lui prese Giovanna e la colpì nel segno e lei capì chiaramente. se lui era il fuoco, lei doveva essere il legno. Lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai, la la la la. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. I want no woman, don't treat me the mean. You're the meanest woman I've ever seen. But I guess if you say so, pack my things and go. That's right, hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, don't you treat me this way, for I'll be back in my feet. They don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Oh, yes, that's right. Don't you come back no more. I love you, baby. Don't you come back no more. Oh, yeah. Ci ha parlato di casa. È che era per non spezzare. E dai, sì, proviamolo. Sono esistita mia sorella. Sì, no, bueno, però. Va a caere, lo sabes. Te lo chiedo, molto bene. Solo che necessito un approccio. No, poi però te lo chiedo. Vai, tranquillo. Las luces pálidas, ella huía de espejismos y horas de mar. Aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que alicias en ciudad. El valor para marcharse, el miedo a llegar. La corriente enseña el camino hacia el mar. Todos duermen ya. estado bien jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar o empezar. Un instante mientras los turistas se van, un tren de madrugada consiguió trazar la frontera entre siempre o jamás. Llueva en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar. Todos duermen ya, déjate llevar. Suena demasiado bien jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar o empezar. Les bonheurs et les peines, les bons coups, les échecs. travailler, faire son mieux et arracher un sourire. Espère être heureux, un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et nos pitons sages dans ces mains effrénées. Après avoir existé pour gagner du temps, on dirait quel bon temps passe finalement, comme une étoile filant. Avec toi je suis bien et je peux que de m'en faire. Artiste, voir trop loin, c'est pas bien que garde derrière. Malgré les vies tour et les amours qui passent, les chemins qu'on part d'un brou et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme le printemps revient. Dans la bouffe et des frais qu'apparaissent les cons en peine. Ça fait qu'il y a soi, j'ai envie de rester. Avec moi la nuit est douce, on peut marcher. Aimer en sinon bien comme doux et en cantant. Je voudrais que ce soit tout, c'est pour moi mon étoile filante. La última. ¿Qué hacemos? Venga, hace una tú. No hace más esta. Schmoppo. Ah, las últimas dos. Ah, perfecto. Hacemos esta y después otra. Ah. Vale, muy bien, está aquí. ¿Necesitas fin? No. Uh-huh. ¿Estás de anhelos o...? Se puede. Además de este, ¿qué tocas tú? Que no están estos. Vamos con el ballo de los caballos, con los caballos que. Sí. I'll marry my lover in a place 2 miles. I don't have to even ask her. I can look in her eyes and thank God that I am forgiven. I thank all my friends to say I've been true. Oh, they've forgotten. Mary, my mind is to say the least. It's been a full heart to just stand on my feet. I think I'll down if I am able. I won't drown in the ocean if you're starving. My plate is a table. Sun it peeks through the cloud. Never die, for always be around and around and around. Beautiful music. All the songs they sing, they wrote themselves. They're Robin and Mike, the incredible string band. When Gimmel and Darlef were standing between, and out of the evening was growing a veil, that pined for the pine woods and ached for the sail. There's something forgotten I want you